dell'altra Europa. Per un ragazzo di Londra, l'Europa è la fidanzata spagnola con cui ha amoreggiato durante l'estate del corso Erasmus a Barcellona. Per la vecchietta di Bristol, citata dal capo degli ultranazionalisti Fraser, l'Europa è il migrante nigeriano che attraversa la Manica per togliere il lavoro al figlio inglese della sua vicina. Ha vinto la vecchietta di Bristol, perché ci sono più vecchiette che ragazzi in questa Europa che non fa più bambini. Non è sconvolgente che a decretare la Brexit sia stata proprio la generazione dei Beatles e dei Rolling Stone, quella che voleva cambiare il mondo e oggi in effetti lo ha cambiato, ma nel senso che se lo è chiuso dietro le spalle a doppia mandata? I giovani, i laureati e i londinesi hanno votato in larga maggioranza per restare, gli anziani, i meno istruiti e gli inglesi di provincia per andarsene. La prova evidente è che si è trattato di una scelta di paura, determinata da persone che, non avendo strumenti conoscitivi adeguati, hanno fatto prevalere la pancia sulla testa e la bile sul cuore. Di fronte all'incertezza del futuro, non hanno reagito con la curiosità, ma con la chiusura. La retorica della gente comune ha francamente scocciato. Una democrazia ha bisogno di cittadini evoluti che conoscano le materie su cui sono chiamati a deliberare. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Oggi ho scelto di aprire con l'editoriale di Massimo Grammellini sulla Stampa, perché riassume in parte il mio pensiero, perché oggi come non mai richiede che ci sia cultura per parlare di questa Europa, ci sia informazione, ci sia approfondimento. Europa stravolta, Europa spaccata, Europa in cui noi continuiamo a credere o continueremo a farlo con il nostro programma. Ho davanti a me la prima pagina del Sole 24 Ore, Europa svegliati o lunedì o niente, quindi ripartire da quello che è successo per ricostruire una nuova Europa. Come? Beh, l'Europa ancora divisa sul rilancio, è il titolo del pezzo scritto oggi da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Ciao Beda, buon sabato. Buongiorno. Buongiorno, allora, shock a Bruxelles, sono passate 24 ore e qualche ora in più, che aria si respira ora? Credo che si cerchi fondamentalmente di recuperare i pezzi e si cerca di dare un quadro legale, giuridico, politico ai prossimi mesi e possibilmente ai prossimi anni. A questo punto il voto inglese c'è stato, la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione e quindi le istituzioni comunitarie si aspettano da parte della Gran Bretagna che notifichi ufficialmente la volontà di uscire. C'è bisogno di quest'atto giuridico, perché così prevede il trattato nell'articolo 50, ed è l'unico modo in questa fase per rimettere in carreggiata gli umori, perché è solo attraverso la trattativa concreta, politica e giuridica, che si può dare un minimo di stabilità e un minimo di certezza sia ai mercati finanziari naturalmente, ma anche alle popolazioni europee che inevitabilmente si stanno chiedendo che fine sta facendo l'Unione Europea. Questo è il momento, e a fianco di questo tentativo, complicato perché gli inglesi in questo momento non hanno voglia di notificare ufficialmente la volontà di uscire per motivi politici e tattici, a fianco di questo primo braccio di ferro vi è il tentativo da parte dei 27 rimasti di rilanciare l'integrazione europea per cercare di rispondere alle forze di disintegrazione che naturalmente il referendum inglese ha scatenato. Un momento storico a cui non reagire con un momento isterico, questo un po' era anche parole citate da un tuo pezzo di un di ieri o di ieri l'altro. Cioè, oggi sembra quasi una reazione un po' stizzita, no? Quella dell'Europa, e vogliono mettere fretta al Regno Unito. Abbiamo sentito quello che ha detto Schulz, abbiamo sentito Juncker. È una reazione lucida, secondo te, quella che stanno avendo i vertici in queste ore? Ma credo che sia lucida la scelta di chiedere rapidamente alla Gran Bretagna di notificare la volontà di uscire. Credo che sia lucida perché c'è bisogno in questo momento di rimettere in carreggiata il rapporto tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. E come dicevo prima, l'unico modo per rimetterla in carreggiata è quella di cominciare le trattative, quindi sedersi al tavolo e negoziare il divorzio. Tutti sanno che non sarà facile, ma bisogna farlo per dare certezza, per dare stabilità a una fase che è molto instabile. A proposito della reazione stizzita, sì, per certi versi è vero, è in parte una reazione stizzita, credo fondamentalmente per tre motivi. Il primo motivo è che i governanti europei a Bruxelles e nelle altre capitali non capiscono come sia possibile che un primo ministro inglese abbia deciso di organizzare un referendum su una questione così delicata, mettendosi nelle mani di reazioni epidermiche da parte della popolazione. E questo è un primo fattore che ha provocato probabilmente una reazione stizzita. Il secondo motivo è che la Gran Bretagna è fra i paesi che ha guadagnato di più dall'Unione Europea. Ha guadagnato di più dall'Unione Europea sia da un punto di vista economico, perché ha goduto di un enorme mercato unico, sia perché bene o male in tutti questi anni è riuscita ad avere delle concessioni molto importanti su vari temi, dagli affari interni agli affari di giustizia e naturalmente alla moneta unica. Quindi anche lì molti a Bruxelles si chiedono: ma com'è possibile che un paese che bene o male ha avuto tantissime concessioni ed è riuscito in tutti questi anni a strappare condizioni molto favorevoli abbia deciso, nonostante tutto, di uscire dall'Unione Europea. E poi forse il terzo motivo, in realtà legato al primo capitolo di quello che stavo dicendo, è questa decisione inglese per ora di non notificare il desiderio di uscire dall'Unione. Credo che molti dirigenti, soprattutto qui a Bruxelles, considerano questa scelta inglese di rinviare addirittura ad ottobre, sembrerebbe, la scelta di notificare, la considerano un po' come tenere in ostaggio i partner europei, e questo naturalmente ai partner dà molto fastidio. Eh sì, perché comunque paralizza la politica, paralizza l'economia, paralizza un po' il futuro di questa nuova Europa, semmai ci sarà. Grazie davvero a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Buon lavoro, Beda, in questi caldi giorni. Grazie, arrivederci. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. Erasmus per giovani imprenditori. Siete giovani imprenditori curiosi di conoscere altre realtà europee? Vi piacerebbe partecipare a un programma di scambio che offra esperienze professionali all'estero utili anche per le vostre aziende? La Commissione europea finanzia il programma Erasmus per giovani imprenditori, attivo sul territorio grazie alla collaborazione di centri di contatto locali per il sostegno alle imprese, come camere di commercio, incubatori di start-up e simili. Il periodo di esperienza all'estero può variare da 1 a 6 mesi e vi darà la possibilità di vivere un'esperienza di formazione lavorando in una piccola e media impresa con sede in un altro paese europeo. L'esperienza mira ad aiutare chi vuole avviare con successo una nuova attività o a rafforzare le basi di un'impresa costituita di recente. Tutte le informazioni sul sito erasmus-entrepreneurs.it. L'altra Europa. got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I... L'Europa come luogo della cultura, e partire dalla cultura appunto per incidere nella quotidianità, nella contaminazione, su aspetti anche diversi, aspetti anche inattesi, aspetti dove magari la consuetudine non ti fa notare quella cosa, come per esempio gli stereotipi legati al genere, legati al femminile. E parte proprio da questa consapevolezza una iniziativa lanciata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, si chiama 100 donne contro gli stereotipi, ribaltare proprio questo stereotipo. Perché per esempio nei mezzi di comunicazione, in televisione, in radio, ogni volta che si cerca un esperto, la maggior parte di queste volte l'esperto è un uomo? Se l'è chiesto appunto la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha lanciato una giornata di studio che è soprattutto una giornata di inizio, di lancio di un importante progetto. Di tutto questo ne parliamo, abbiamo il piacere di farlo con il neo capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Diamo il benvenuto qui all'Altra Europa, Beatrice Covassi. Buongiorno Covassi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per aver partecipato al nostro invito in questi giorni che sono giorni intensi, vero? Non credo sia facile parlare di Europa in queste ore. No, effettivamente no, ma anzi è ancora più necessario forse, direi. E Covassi, prima di parlare del progetto, ovviamente la porto per un attimo su Brexit. È la fine dell'Unione Europea, come in tanti stanno scrivendo? No, assolutamente no. Certo, oggi è il giorno post-Brexit e quindi confesso che c'è una tristezza, un certo rammarico, come ha espresso anche il presidente Juncker ieri nella sua dichiarazione, da parte di tutti noi di fronte a questa decisione del popolo britannico, ma al tempo stesso vogliamo andare avanti e l'Europa resta anche a 27 un quadro di riferimento imprescindibile per il futuro sociale, politico ed economico delle nostre generazioni. Certo. Covassi, lei ha già detto un'Europa 27, lo ripetiamo ancora, ma cosa succede ora? Cioè, UK è già fuori? Di fatto no, perché c'è tutto un percorso, no, anche amministrativo. No, c'è tutto un percorso da seguire, infatti, come dice lei, chiaramente è un percorso che non ha precedenti, nel senso che è la prima volta che si mette in atto questa procedura prevista dal famoso articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, che non era mai stata attivata, ma che prevede tutta una serie di tappe. Quindi prima dobbiamo ricevere la notifica ufficiale da parte del governo britannico, del Regno Unito, della loro intenzione di uscire dall'Unione Europea, e dopodiché inizieranno i negoziati di uscita con il Regno Unito, secondo le procedure previste, e alla fine di tali negoziati il Regno Unito non sarà più parte dell'Unione Europea. Quindi è un processo che prenderà senza dubbio del tempo. Leggendo le prime dichiarazioni dei vertici, insomma, la speranza anche che questi negoziati non siano infiniti, anche perché c'è bisogno, credo, per tutti di chiarezza in questo momento. Beh, certo, ancora una volta appunto è uscito il nostro presidente della Commissione Juncker, e nella comunque la dichiarazione congiunta che sono stati fatti dai tre presidenti abbiamo detto: aspettiamo che il governo ratifichi questa decisione del popolo nel più breve tempo possibile, perché una forte incertezza non è utile a nessuno, ecco. Quindi ritardi e incertezze non sono utili, anche se chiaramente è una decisione dolorosa e quindi il processo sarà abbastanza difficile che ci aspetta. Kovács, invece, ora parliamo di questa iniziativa. Giovedì 23 giugno alle 9.30 presso l'Università Campus Link in via del Casale San Pio, San Pio V, 44 a Roma. Questa giornata, 100 donne contro gli stereotipi. Di cosa si tratta? Sì, le ringrazio perché dell'iniziativa di invitarci per questa trasmissione su questo, perché è un punto molto importante e a cui tengo molto personalmente, perché io sono la prima donna a capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia dopo 50 anni sostanzialmente, quindi un discorso sulla presenza delle donne e degli stereotipi in Europa ma anche nel nostro paese mi è molto a cuore. E questa iniziativa promossa insieme all'Associazione Giulia dei giornalisti e l'Osservatorio di Pavia punta effettivamente a promuovere i curriculum, i profili professionali delle donne che, come spesso, e come lei ricordava, come spesso accade, non sono parte dei panel di esperti, non sono chiamate, soprattutto nei media, ad esprimere la loro professionalità. Partiamo da 100 donne, sarà una banca dati delle eccellenze femminili che partirà dalle discipline scientifiche per poi espandersi con una sezione dedicata all'interno di Wikipedia, quindi la possibilità di una grande esposizione, una grande accessibilità di questi curricula. E speriamo che con questa iniziativa, poi speriamo si estenda a 100.000 donne, si possa creare effettivamente una diversa percezione dell'impatto della professionalità femminile nei media italiani, soprattutto, e poi anche in altri ambienti più istituzionali. Certo, insomma, quindi un'operazione che ha un forte impatto simbolico, ma anche un forte impatto pratico. Non ci potrà più essere l'alibi di non conoscevo quella persona, non sapevo che c'era quella donna in quel ruolo, perché l'idea è proprio quella di creare una banca dati. Si parte con i primi 100 nomi, appunto, in ambito scientifico, ma poi, come ci ha detto la dottoressa Kovassi, l'idea è proprio quella di ampliare in tutti i campi per avere una banca dati all'interno di Wikipedia di donne e ruoli specifici per poter esprimere opinioni, saperi e competenze. E c.europa.eu/Italy, come sempre, il sito per tutte le informazioni. Ricordiamo, 100 donne contro gli stereotipi, giovedì 23 giugno alle 9.30. Grazie Kovassi, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buona giornata, a presto. Europost-it. Future Lab Europe. Sei un giovane e creativo europeo di età compresa tra i 20 e i 30 anni? Sei interessato alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica dei cittadini all'interno dell'Unione Europea? Future Lab Europe è alla ricerca di 20 giovani brillanti che vogliono lavorare per il futuro dell'Europa attraverso l'implementazione di progetti che siano di impatto sulla società. I candidati selezionati parteciperanno a un seminario di 4 giorni a Bruxelles insieme a più di 100 giovani europei da diversi paesi che si confronteranno sul futuro dell'Unione. Per informazioni, visita la sezione Call for Applications del sito futurelabeurope.eu. Emigrata, emigrata, emigra punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. La cultura per questa Europa, cultura che viene declinata anche in studi, in analisi, in ricerche, per avere dati concreti, per non essere scollati tra territorio, tra realtà e palazzo. Anche in questa visione rientra l'iniziativa di cui vi andremo a parlare tra un attimo. È stata presentata in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalla Commissione Europea, una iniziativa interna che però ha tante collaborazioni esterne, della creazione di un centro di conoscenza sulle migrazioni e la demografia. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Dario Tarchi, ricercatore del Joint Research Center. Buongiorno Dario. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora, sì. Che cos'è questo centro? Qual è la finalità prima? Sì, appunto questo è un centro che nasce con la finalità di raccogliere conoscenza sul tema appunto della migrazione, sul tema della demografia, di raccoglierla, di analizzarla, di classificarla, di filtrarla in modo che si crei una base di conoscenza scientificamente convalidata e la più completa possibile, e che questa conoscenza poi sia messa, portata all'attenzione del livello politico, quindi di quei servizi interni alla Commissione che si occupano di formulare le politiche attinenti a questo tema. Certo. Direttamente al tema della migrazione, ma sappiamo bene che migrazione e demografia sono temi che diciamo influenzano molti altri settori, quindi in questo senso è un'iniziativa di vari servizi della Commissione che sono tutti appunto interessati più o meno direttamente al problema. Tarchi, migrazione e demografia, solitamente tutto ciò viene tradotto in numeri che sono necessari, essenziali, determinanti ovviamente. E certo. Con le vostre ricerche, le vostre analisi, però se vuole andare oltre certamente. I numeri. Vogliamo andare oltre i numeri, ma il problema dei numeri, dei dati di base, è un problema in questo ambito fondamentale. Quindi il centro che si organizzerà secondo tre pilastri fondamentali, uno è appunto quello della conoscenza, dove il tema dato è stato identificato da tutti i servizi, da tutti i partner con cui ci siamo confrontati in questa fase di preparazione, come il problema numero uno. Dati mancano, laddove vi sono possono essere incompleti, possono essere come dire incoerenti, c'è bisogno, dove esiste il dato, di fare una verifica di qualità. Questo è l'elemento fondamentale, e su questo poi verranno mano a mano che noi abbiamo dei dati sempre migliori, sempre più consolidati, acquisiamo nuovi dati. Sì. Questo è anche un tema importante. Alcuni aspetti dei fenomeni migratori mancano di dati, quindi il ruolo di nuove tecnologie per colmare questi gap esistenti, e quindi ecco, questo è proprio un punto fondamentale su cui il centro lavorerà in collaborazione con anche moltissimi partner interni appunto alla Commissione, ma anche esterni. Sappiamo bene che diciamo, esiste un numero di organizzazioni di altissimo livello che già lavorano da molto prima di noi sul problema, quindi il centro dovrà stringere collaborazioni importanti con questi soggetti, parlo di OCSE, parlo di Organizzazione Internazionale della Migrazione, parlo di Agenzie dell'ONU ad esempio, solo per citarne alcune, ma non solo loro, vi sono tantissimi centri di ricerca e università. Certo. Quindi non faremo questo, anzi, è uno degli obiettivi principali del centro, quella di mettere assieme la conoscenza e l'esperienza esistente, evitando nel modo più assoluto duplicazioni. Quindi aggregare dati, cercare nuovi numeri e, come ha detto, mettere anche a sistema tutto quello che già c'è di buono. Senta. Grazie davvero Tarchi, buon lavoro a lei e tutto il suo staff. Arrivederci, grazie. Un Europostit, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. SVE a Baia Mare sulla biodiversità. Avete meno di 30 anni? Vi sta a cuore la tutela dell'ambiente? Volete mettervi in discussione e partecipare ad un progetto di volontariato? L'Associazione Scambi Europei vi invita a partecipare a un progetto di volontariato internazionale SVE a Baia Mare sulla biodiversità. Il progetto vuole creare consapevolezza nei partecipanti sull'impatto che i nostri comportamenti antiecologici hanno sull'ambiente e sull'importanza del riciclaggio. Il servizio darà la possibilità ai volontari di lavorare insieme agli abitanti di Baia Mare su progetti ed attività sociali volti ad aumentare la consapevolezza locale e nazionale in materia di sostenibilità ambientale e biodiversità. Spese di viaggio, vitto e alloggio saranno coperte, così come l'assicurazione ed un breve corso di lingua locale. Per tutte le informazioni cercate SVE a Baia Mare sul sito scambieuropei.it. L'altra Europa. پیش ازی ویدیوهایی را دیده بودم البته در فیسبوک زیاد دیده بودم کسایی که تصویر برداری کرده بودن دیده بودم زیادتر دریای یونان را دیده بودم زیادتر دریای ترکیه را دیده بودم مسیر دشتها را ندیده بودم پیاده روی ها را ندیده بودم Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia su Twitter e Facebook, se volete contattarci, oppure Euronet Plus R24, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Quello che invece state ascoltando in sottofondo è il trailer di un documentario, si chiama My Escape, mostra i viaggi che i rifugiati dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Eritrea hanno filmato con i loro smartphone. È uno dei tanti lavori presentati in questi giorni al Digi Festival. Scusate, il festival del giornalismo che si sta tenendo a Riccione, documentari, inchieste, giornalismi, sono i prestigiosi Digi Awards, i premi internazionali del videogiornalismo che vengono assegnati ogni anno in questa vetrina sempre più importante, sempre più significativa. E di questo parliamo, del Digi Festival, iniziativa che ha anche il patrocinio della Commissione Europea, e lo facciamo con uno dei membri della giuria. Diamo il benvenuto a Marco Nassivera, direttore di Arte France. Buongiorno Marco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Intanto, che cos'è Arte France? A te è una televisione un po' particolare perché è metà francese e metà tedesca, quindi europea. Ed è una televisione incentrata sui documentari in particolare? Avete una vocazione giornalistica? Sulla cultura, sui documentari, sull'inchiesta, sì. E tu sei italiano? Io sono francese, ma i miei genitori sono italiani. Ho capito, quindi insomma mi sembra che tu abbia una contaminazione culturale in te ottima per dirigere questa rete. Come stanno andando queste giornate a Riccione? Ci sono nuove tendenze nel giornalismo d'inchiesta che avete notato? Ci sono dei fili conduttori che avete evidenziato? Una nuova linea non lo direbbe, però sai, come dappertutto è l'attualità che comanda, quindi i profughi, le inchieste sulle banche, sulle cose un po' nascoste, quest'anno sono in prima linea. Mm-hmm. E come abbiamo sentito nel trailer precedente, forse nuovi linguaggi, lo smartphone, ma abbiamo visto cose fatte via WhatsApp, abbiamo visto cose fatte via Snapchat. I giornalisti cercano questi nuovi linguaggi per raccontare le nuove realtà. Certo, i telefonini, i fumetti, diciamo, anche per dare un po' di vita alle cose che non possiamo filmare. E cerchiamo sempre sulla televisione e anche sui nuovi mezzi. Sul computer, sul telefonino, con Snapchat, con nuovi mezzi narrativi. Mm-hmm. E questo si sente bene quest'anno a Riccione. Mm-hmm. Ma Marco, tu appunto dirigi questo canale in doppia lingua. Ci sono differenze sostanziali nel fare giornalismo in Francia rispetto all'Italia, da quello che hai colto? Direbbe che sul fondo no, sono buoni e non buoni giornalisti dappertutto, ma forse c'è una cultura un po' diversa, perché il più importante è avere lo spazio nella TV. Se non c'è lo spazio non puoi mandare in onda documentari d'inchiesta, e forse in Italia c'è un po' meno spazio adesso. Mm-hmm. C'è meno spazio riguardando alla Francia o alla Germania. Certo. meno spazio all'inchiesta, insomma, e il DJ Festival è nato anche per sottolineare questa esigenza. Ricordiamo che oggi un'intera giornata ancora di proiezioni e di incontri, poi questa sera la premiazione finale alle 21.30 in piazza a Riccione, e voi come giuria avete già decretato i vincitori? Ancora non tutti, siamo, ho fatto una piccola pausa per voi, ma stiamo discutendo perché è un po' stretto su certe categorie. Okay. Quindi è una buona cosa, perché ogni anno il festival è di un livello superiore, quindi un po' difficile, ma bello. Buon lavoro, ricordiamo questa sera allora alle 21.30 in piazzale Ceccarini a Riccione con le finali del DJ Festival 2016. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie, ciao. Europost-it. Premio Giovane Volontario Europeo dell'anno. A tutte le associazioni e organizzazioni di volontariato. Nell'ambito del premio del volontariato internazionale, FOCSIV e Agenzia Nazionale per i Giovani promuovono il premio Giovane Volontario Europeo dell'anno, aperto a giovani volontari impegnati in programmi europei di varia natura. Potranno candidare i propri volontari tutte le organizzazioni di coordinamento di invio o di accoglienza SVE in Italia, oltre a tutte le organizzazioni che abbiano volontari impegnati nel servizio civile nazionale all'estero. Sono ammesse anche le candidature di giovani che stanno svolgendo uno SVE di almeno 6 mesi in Italia o all'estero. Tutte le informazioni per la partecipazione sono sul sito premiodelvolontariato.foxiv.it. Thinking we were going down, I could feel us sinking, then I came around. Well, I wanted something better, man, I wished for something new. Something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch. Si è tenuto mercoledì 22 giugno un tavolo di lavoro su accessibilità e itinerari culturali del Consiglio d'Europa. A questo tavolo ha partecipato anche Pietro Scidurlo, fondatore di Free Wheels Honlus, che è qua con noi. Ciao Pietro, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, un'associazione nata nel 2012, associazione per garantire a tutti la possibilità di fare i cammini d'Europa, anche se non si ha magari la possibilità di camminare. È un po' questa la finalità della tua associazione, giusto? Sì, noi diciamo, nasciamo nel 2012 con l'obiettivo di permettere a tutti di intraprendere esperienze un po' borderline, come può essere l'esperienza di un cammino, di un pellegrinaggio, nella certezza che nel momento in cui si trova il coraggio di fare un po' il primo passo in questa esperienza, ma parallelamente nella vita, insomma, si torna più sicuri di se stessi e ci si chiede cosa non posso fare nella vita. Quindi una presa di coscienza un po' delle proprie abilità e non delle proprie disabilità. Mm-hmm. E, il Consiglio d'Europa, ricordiamolo, patrocina questi itinerari culturali europei, molti dei quali sono percorsi accessibili a piedi, sono lunghe, lunghissime camminate. Alcuni di questi percorsi tu li hai fatti, da questa esperienza è nato anche Santiago per tutti, la prima guida pensata per consentire anche a persone con esigenze speciali di affrontare in tutta sicurezza il cammino di Santiago. Edizioni Terre di Mezzo, lo ricordiamo per dare l'informazione corretta. E Pietro, quali sono le richieste concrete e le proposte concrete che fate? Ma oggi, quando siamo stati a Strasburgo in questi giorni, abbiamo potuto capire come l'accessibilità non fosse ancora uno dei criteri presi in considerazione dai manager degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, ma che invece lo stesso Consiglio d'Europa voleva introdurre. Vedendo che ci sono sempre più persone che intraprendono questi cammini senza nessuna esclusione e vedendo che la tecnologia ci permette di fare questi, chiamiamoli trekking, molto lunghi, anche per persone a mobilità ridotta, è nato proprio l'obiettivo di intraprendere un progetto, intraprendere un cammino, chiamiamolo così, che possa portare nei prossimi anni a introdurre tra i criteri fondamentali per il riconoscimento di un itinerario da parte del Consiglio d'Europa anche del criterio dell'accessibilità. E quindi insomma è stata una piccola grande vittoria, diciamo, poter far comprendere e forse far prendere consapevolezza a queste persone che operano su questi grandi itinerari quanto sia importante l'apertura a tutti di queste esperienze. Ok, Pietro, rimani lì un attimo e ci fermiamo, sì. È il momento delle informazioni sul traffico, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Pietro Scidurlo, stiamo parlando dei cammini europei accessibili a tutti. Pietro, ci sono esperienze virtuose che state tentando anche di replicare, per esempio, sui tratti italiani della Via Francigena? Una delle esperienze virtuose, non tanto perché è stata insomma realizzata da noi di Free Wheels, poi scritta da me e da Luciano Callegari come Santiago per Tutti, è proprio questa. Quindi Santiago per Tutti sì, è una guida per tutti, ma è anche un modello di lavoro che vorremmo esportare sui cammini italiani, guardando oggi proprio verso il più importante forse dei cammini italiani, che è appunto la Via Francigena. Mm-hmm. Sempre per portarti su esempi concreti, sì. Quando chiedete appunto proposte di accessibilità, significa che ne so, più bagni lungo il percorso, che le strutture abbiano ovviamente tutto ciò che serve per l'handicap? Quali sono le richieste principali? Ma sostanzialmente, anche se può sembrare magari un po' utopica come cosa, quando siamo andati a Strasburgo abbiamo detto, sappiamo tutti qual è il tipo di approccio tecnico che va fatto, le normative, le pendenze dei percorsi, la necessità dei servizi, come devono essere. Secondo noi quello che andrebbe cambiato è il tipo di approccio culturale, quindi prendiamo consapevolezza di queste persone con esigenze speciali sugli itinerari europei, sì. Se c'è questa presa di consapevolezza, poi il resto credo che venga tutto molto più naturale. Quindi viene il rispetto delle normative, viene la presa di coscienza della necessità di servizi più ampi per tutti e quant'altro. Noi, per portare un esempio molto pratico, diciamo, sì. Prendete un bambino e mettetelo sulla Via Francigena, un bambino di 5 anni. Se ce la fa, allora la Via Francigena può essere per tutti. Quanti chilometri hai fatto tu in totale di queste vie? Le hai contate? Qualcuno mi ha già fatto di recente questa domanda, mi ha indotto a doverli contare. Diciamo che nel raggio di 4 anni sono quasi 5.000 chilometri. L'immagine più bella di questi 5.000 chilometri qual è? L'immagine più bella, il primo amore non si scorda mai. Credo che arrivare a Finisterre, arrivare a Muscia, dove c'è la Virgen della Barca, e vederla per la prima volta dopo tanto tempo che lo si desiderava, lo si sognava, è sempre un'immagine molto, molto calda. E quando magari rivedo le immagini, magari durante qualche presentazione di Santiago per Tutti, di quello che è stato il primo cammino, insomma, un po' di emozione viene sempre, sì, un po' di emozione viene sempre, perché dice, porca miseria, quanto tempo è passato, quanti chilometri dietro le mie spalle. Quanti chilometri davanti però, ancora. Davanti. Pietro, ricordaci il sito per conoscere meglio le attività dell'associazione? Allora, Free Wheels Onlus è raggiungibile su tutti i maggiori social, da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e presto sarà online il sito freewheelsonlus.com, che è la nuova piattaforma che stiamo sviluppando, e insomma presto riceverà tante nuove novità, perché oltre al Cammino di Santiago compariranno anche nuovi tracciati che pian piano stiamo costruendo. È un lavoro molto lungo che richiede tanto tempo, tante energie, quindi insomma l'accessibilità non si fa da oggi al domani, però si fa pian piano e si fa fatta bene. Ruote libere, certo, ruote libere, ci piace questo invito. Piace. Grazie davvero, ciao Pietro, buon lavoro. Ciao a tutti voi, grazie. Ancora Ancora una manciata di minuti in questa puntata dell'Altra Europa, manciata di minuti che andiamo a vivere a San Donà di Piave. Siamo in provincia di Venezia, siamo in compagnia del sindaco Andrea Ceresere. Buongiorno sindaco. Buongiorno. WeGov Now, progetto europeo dove è coinvolta anche Londra, quindi siete a rischio, attenzione adesso. Siamo a rischio. Intanto complimenti per la trasmissione, tenete duro, anzi moltiplicate gli sforzi perché ne abbiamo bisogno. Assolutamente. Che cos'è questo progetto che vi vede appunto San Donà di Piave coinvolto con città ben più grandi? Abbiamo citato Londra, ma c'è anche Torino. Torino, sì. Ci sono tre università inoltre, della Germania, della Gran Bretagna e dell'Italia, e quattro spin-off universitarie che coinvolgono anche Grecia piuttosto che i paesi scandinavi, dove lo scopo è quello di implementare delle piattaforme digitali non solo per i cittadini utenti, il cosiddetto e-government, sì, ma anche per i cittadini attivi e quindi per il cosiddetto we-government. All'interno di questo partenariato noi dobbiamo sperimentare queste piattaforme in modo che da qui a 2 anni possa nascere un prodotto utilizzabile nei diversi contesti di città, di diversi paesi e dimensioni. Quindi i cittadini che diventano attori della governance del comune? Beh, attori significa su alcune scelte importanti dove normalmente si lascia la responsabilità agli amministratori di decidere spesso in solitaria autonomia, la possibilità invece di raccogliere anche le idee, le proposte, ma anche gli indirizzi della popolazione, laddove in un contesto di risorse non più infinite, bensì scarse, bisogna fare delle scelte importanti e precise che privilegiano un'azione piuttosto che un'altra. Certo. Sindaco, come comune non siete la vostra prima esperienza, già avete partecipato a un progetto europeo simile nel senso che eravate connessi con altre realtà ben più importanti. Al di là della specifica legata al progetto, qual è il valore aggiunto che un'esperienza di questo tipo porta a un comune, a una realtà, a un territorio come il vostro? Beh, noi siamo capofila di un altro progetto importante, URPACT, che praticamente comprende una rete di 10 comuni d'Europa di dimensioni simili alla nostra, dai 20 ai 40 mila abitanti, e proprio in questa settimana, sono rientrato ieri dall'Olanda, si è tenuto un seminario sul tema della rigenerazione dei centri urbani e quindi come è possibile immaginare una città intelligente, sostenibile, inclusiva, secondo quelle che sono le politiche comunitarie, condividendo delle buone prassi, delle esperienze, delle opportunità che un po' tutti i comuni si trovano a vivere rispetto anche ai grandi cambiamenti che abbiamo, dall'invecchiamento della popolazione al tema delle migrazioni globali, al tema della sostenibilità ambientale. E si arriva a questo risultato in che modo? Beh, intanto, quando escono i bandi è già troppo tardi. Sì. Bisogna che prima ci sia un'idea, una strategia. Bisogna che ci sia un buon partenariato e quindi è importante anche fare un investimento sulla ricerca di partner che siano all'altezza della situazione, una capacità di scrivere un buon progetto di modo che quando esce il bando è già stato tutto costruito. Si tenga conto che purtroppo invece le amministrazioni operano un po' al contrario, esce un bando che magari prevede una copartecipazione anche finanziaria, ma non c'è stata la programmazione già nel bilancio di previsione di quella quota che poi i comuni dovranno investire, oppure richiede una progettazione preliminare se si tratta di infrastrutture, ma anche in questo caso in 20 giorni o 60 giorni non c'è il tempo per farla, quindi bisogna che prima un comune decida di che cosa ha bisogno. Noi abbiamo puntato su 3 capitoli, uno è questo sul We Government, un altro riguarda appunto la rigenerazione del centro urbano e il terzo riguarda l'energia, per cui avremo 7 milioni di euro da spendere per rivedere tutta l'illuminazione pubblica e anche la sostenibilità energetica degli edifici pubblici. Cioè, al di là della domanda se tutto ciò porta o meno consensi o voti, che non è la cosa che ci interessa ora, sono politiche facili da comunicare ai cittadini? No, non sono facili perché in realtà i cittadini sono molto legati a quello che abbiamo fatto sino ad oggi, dove c'erano risorse che abbiamo speso anche oltre le nostre possibilità e non era indispensabile andare a cercare opportunità diverse per realizzare opere pubbliche. Oggi invece il futuro parla Europa e al di là di quello che pensa una parte del popolo britannico, perché non vorrei neanche generalizzare, non dimentichiamo che il 48% dei britannici sono favorevoli a rimanere nella UE e quindi di loro dobbiamo avere chiaramente rispetto. Ecco, nel caso dei cittadini e della possibilità di realizzare opere pubbliche, il futuro è sicuramente europeo, quindi passa di lì. Non è facile comunicarlo, è per questo che abbiamo messo all'interno delle nostre priorità anche questo tema sull'avvicinamento dei cittadini alla pubblica amministrazione e viceversa. wegovnow.eu, questo è il sito per tutte le informazioni, per conoscere il progetto. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. E questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Andrea Roccabella, oggi la parte tecnica, Claudio Scatone in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. L'Altra Europa @radio24.it, la mail se volete contattare la nostra redazione, radio24.it invece il sito da dove poter scaricare la puntata e riascoltare il podcast, oppure ci trovate sui social, il mio account è @FedericoTadia su Twitter e su Facebook. Ancora grazie, l'appuntamento come sempre è a sabato prossimo, buon sabato. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.